Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. E oggi spazio anche l'informazione, come avete sentito, perché insomma succedono molte cose in questo sabato, ma senza altri indugi subito il nostro sabato del villaggio. Vi do i nostri numeri di WhatsApp e SMS perché, ve lo dico già, giocheremo. Ci saranno molti biglietti da regalare per dei concerti molto belli, quindi 349-238-6666. 349-238-6666, numero per WhatsApp e SMS. Dopo il traffico vi dirò perché, insomma, un'iniziativa molto carina, sono contenta di portarvi a sentire buona musica. Noi staremo insieme come sempre fino alle 18, c'è anche il mio account di Twitter per tenerci compagnia, chiocciola Marta Cagnola. Ho già anticipato qualche ospite di questo lungo pomeriggio, l'ho anticipato su Twitter e su Instagram. Intanto i temi della prima ora: sicurezza, ma non solo, nell'appuntamento con le tecnologie insieme a Enrico Pagliarini. Con il gastronauta torneremo tra poco a parlare di pizza, come sempre tutte le uscite al cinema del fine settimana, ma abbiamo un sacco di ospiti, quindi partiamo proprio col cinema e con uno studio molto molto molto affollato. Cuba ormai è una terra di frontiera, l'embargo non c'è più. Sì, però l'affare qual è? Stanno assegnando wifi in nuove zone fuori città. Se avessi bisogno di soldi. Quanto? 20.000. Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani. Siete venuti qua a cercare fortuna? In certo senso, sì. Poi gli italiani vengono sempre con la scusa di vedere gli ultimi comunisti. Poi invece alla fine vogliono solo scopare. Ecco, noi non siamo proprio quel genere là di italiani. Si vede. Pensa un posto così in Italia. Wi-Fi solo a Piazza Navona. Fino alla fine del secolo. Fino alla fine di te. Paese per giovani non è un'affermazione che riguarda così il paese, non sono diventata matta, è il titolo dell'ultimo film di Giovanni Veronesi, è appena uscito al cinema, secondo me molti di voi sono andati a vederlo questo fine settimana, molti andranno a vederlo in questi giorni. Che bello avere qui Giovanni Veronesi, buongiorno. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno. E anche i due protagonisti, Filippo Scicchitano. Lo sapevo, ciao, te sbagliavi, perché se te eri sbagliato su Veronesi ho detto Scicchitano, fa un disastro. Senti, mettimi alla prova. Filippo Scicchitano, buongiorno. Bravissimo. E poi Giovanni Anzaldo, ciao Giovanni. Ciao, ciao. Che bello vedervi così, vestiti, normali, sereni, perché nel film ne fate un po' di tutti i colori, eh? Poi soprattutto Anzaldo sta sempre a petto nudo. Adesso c'ha un giubbottino meraviglioso. Io il film l'ho visto e non mi sono mai lamentata di questa scelta di tenerlo sempre visto, a petto nudo. Io te lo dico, secondo me tutto sommato hai fatto bene. Fatto bene, sì, sì. Hai fatto visto bene. Come l'ha mascherato bene quando fa il cameriere all'inizio, che sembra un ragazzino, sì, che un po' esile, sì, sì, poi sì. Si toglie la camicia e come Hulk spara, esatto, contro il muscolo, esatto. Infatti così le ascoltatrici, se non sono ancora andate a vedere il film stasera, tutte lì col biglietto. Stiamo sorridendo, ma il tema è tosto. Non è un paese per giovani. Primo film della storia nato da una trasmissione radiofonica. Beh, forse sì, si può dire, almeno in Italia. Felici, sì. No? Che sì. Anche dalla tua trasmissione si potrebbe. Tocca anche a noi certo. Inventarci un film. Hai raccolto per un sacco di tempo le testimonianze dei ragazzi che sono andati a lavorare all'estero. Però non hai fatto un film raccontando quelle storie lì. Ci sono dei brevi flash. Hai fatto un film narrativo, un film di finzione, ha raccontato una storia impegnativa appunto con questi due giovani che finiscono a Cuba, sì, e ne succederà di ogni. Tengo sempre a dire che tutto sommato anche la storia di loro è un mix di storie vere, perché la storia dei combattimenti che c'è nel film, questi combattimenti clandestini che prendono piede a un certo punto e fanno twistare la storia anche a livello drammatico, è vera, di un ragazzo che invece a Cuba le faceva in Thailandia e che si è un po' perso facendo quel tipo di combattimento, anche perché lì poi gira droga, insomma. Filippo, Giovanni, voi avete l'età giusta per raccontare questo film. Che cosa avete pensato quando vi siete trovati di fronte alla storia di Sandro e di Luciano? da interpretare sicuramente, parlo per il mio personaggio, o almeno il ruolo di Sandro, che sogna di diventare uno scrittore e conosce poi Luciano in questo ristorante a Roma, perché per mantenersi da vivere appunto il mio personaggio si trova a lavorare in un ristorante, e verrà convinto ad andare a Cuba con 20.000 euro a testa per aprire un ristorante con il wifi, che è poi il vero affare, insomma, a Cuba il vero affare è il wifi, e questa è la verità, perché ci sono pochi punti, e Luciano mi convince proprio su questo. Solo che Luciano dentro ha delle cose che... cose irrisolte. Sì. E devo dire che è sempre bello interpretare dei personaggi che non hanno pace, perché ti permette un po' di... a meno di dare un piccolo sfogo anche mentre si recita, di risolversi piano piano, poco, pochissimo. Ma Luciano è un ragazzo che ama la vita, la vuole divorare, e a costo di mangiarne anche i bocconi più amari, però vuole assolutamente fare qualcosa, tant'è che convince lui, appunto convince Sandro ad andarsene via, andiamo via, perché tanto qua siamo a fare i camerieri, e per farlo qui conviene anche andarsene da un'altra parte. Infatti, guarda, è una frase che mi sono proprio segnata, se non si capisce quello che ho scritto, perché l'ho scritto al buio del cinema, se devo fare il cameriere in Italia meglio andare all'estero, pensa Sandro, che poi è un po' quello che pensano quei 120.000 giovani, sì, che lasciano l'Italia. Uno dei grandi sogni dei ragazzi, di tanti ragazzi, è quello di fare gli attori. E volevo chiedere a Filippo e Giovanni, due volte che cominciamo a vedere, due personaggi che cominciamo a conoscere, per voi comincia a essere un paese per giovani, per il vostro lavoro, per voi due? Cominciate a trovare la vostra strada, vi ho già visto in cose belle, importanti. È il lavoro più bello del mondo. Perché, anche perché quello così... del giornalista non è male, però... Sì, ognuno piace il suo, a me piace il mio, e credo che sia il più bello, perché poi alla fine è una grande fortuna poterlo fare, perché fai un qualcosa che ti piace anche, pensi che ti pagano, è tutta una cosa più quella roba là, capisci? Perché ti pagano anche, e tu dici, ma come? Come mi pagano? Per fare questa cosa qui che io amo? Così, certo, poi bisognerebbe fare bei film, e quindi... l'obiettivo è quello, si spera di fare sempre bei film, perché poi c'è cosa più brutta di inceppare in un film brutto. Fortunatamente non c'è successo con questo, sono molto fiero di questo film. Vuoi dirci qual è il film brutto che hai fatto nella vita, così diamo un bel colpo al regista di quel film e mi levo di torno un rivale? No, siamo qua. L'importante, no, penso che al di là di qualsiasi film che magari può essere meno riuscito di un altro, è l'onestà nelle scelte, insomma, poi bisogna crederci nelle cose, e poi i film possono venire bene e male. Però è venuto male? Dai, su, te frega. Ormai. Fatti pochi. Fatti pochi. Esatto, fatti pochi. Quindi Anzato, è meglio... vuoi dire te che vieni dal capitale umano, film di Virzì, premiato, super premiato, hai fatto quella parte bellissima nella quale io ti ho notato, tra l'altro. Ah, l'hai visto, cioè l'hai scelto, sì, dopo. L'ho notato lì. No, me l'ero ricordato che era molto bravo in quel film. Più bravo di tutti, cioè, secondo me. Secondo me, poi sono bravi attori in quel film, certo, tutti bravi. Ma lui in quella piccolissima cosa del drogato che gli danno la colpa, tutto, secondo me lui è perfetto. Sarà che la droga è una cosa che ritorna nella mia vita. No, no, ritorna perché anche in questo film. Certo. Un po'. No, io volevo suonare l'altra campana invece, perché si dice sempre sì, è il lavoro più bello del mondo, è vero. Ma c'è una parte che vive nell'ombra, c'è un sottostrato che vive malissimo questo mestiere, cioè la gran parte degli amici che hanno studiato con me teatro se la vivono malissimo e arrivano a guadagnare delle cifre ridicole. Quindi sì, è vero, c'è una parte che vive bene questo mestiere e io ringrazio di farne parte, cioè in qualche modo mi arrangio. Però c'è veramente, conosco molte persone che stanno malissimo, è un mestiere che non è tutelato, che non ha garanzie di niente, al di là che è quello che la disoccupazione fa parte del nostro mestiere. Il precario, per precario per eccellenza. Ma però... chi se ne frega, tanto... No, però è veramente, cioè, si guadagnano le cifre ridicole, soprattutto a teatro, c'è gente che non sopravvive facendo questo e è costretta a fare altri lavori e spesso finisce per abbandonare questo mestiere. Quindi io non so se consigliare ai giovani, anche perché ci sono più scuole di teatro ormai, di recitazione, che non possibilità in realtà di farlo questo mestiere. Verissimo, verissimo. Ma vi tiene sempre viva ha sempre tenuto così tonici, Giovanni? Tonici, dici? Che mi punzecchia. Sì, sì, sempre. Sempre, per forza. Io perché li invidio. Sono belli, giovani. La mattina venivano sul set, erano bellissimi. Li guardavo, dicevo, non sono belli questi. Io li voglio ammazzare, voglio torturarli per tutto il giorno. E quindi infatti, dicevi a quello che lo doveva menare, menalo di più. Menalo, vamma a prendere quella cosa laggiù. Vai laggiù, torna, torna qua. Vai là e torna qua. Vai là e torna qua. Sulla spiaggia, sotto il sole, a Cuba. Insomma, vestiti, capito? Insomma, li ho torturati. Io gli attori li odio, tutto sommato. È giusto che sì, devono essere un po' perché sono odiati. Troppo belli, troppo. C'hanno questi sorrisi alle 7:30 di mattina. Ma come fai a sorridere così bene alle 7:30 di mattina? Ciak, pronti, motore, azione! Tra, sorriso meraviglioso alle 7:30. Perché passi come dal se fosse... trucco. Ho capito, passi dal trucco, ma se io passo dal trucco rimango al trucco tutto il giorno, non riescono a trovare gli occhi, il naso. Invece gli attori sono belli, hanno questi sguardi meravigliosi che io vorrei avere. Io quando penso agli sguardi belli, penso agli sguardi degli attori, poi vado davanti allo specchio, tento di farlo, non mi viene, capito? E quindi odio gli attori. Ma è vero che un certo Sandro Veronesi ti ha regalato delle frasi sì. del libro che poi sì, scrive... Sandro... E scrive poi Sandro. Sandro, naturalmente il protagonista del film si chiama Sandro e fa lo scrittore. Quindi ne conosciamo un altro. L'omaggio a mio fratello, diciamo, è abbastanza esplicito. E gli ho chiesto a Sandro, siccome a un certo punto avevo bisogno di una pagina di questo romanzo che viene letta nel film, gli ho chiesto a Sandro: tu saresti in grado di scrivermi una pagina di un romanzo che non hai mai scritto e che non scriverai mai? E mi serve solo una pagina. E lui mi ha detto: dammi un argomento. Gli ho detto una parola e lui mi ha detto: non lo so, se mi viene bene, se no no. Dopo 20 giorni mi è arrivata un'email senza dirmi niente, iniziava questa pagina, e io a leggerla mi sono commosso perché mio fratello è veramente forte a scrivere, e l'ho messa nel film. Chi va a vedere il film si renderà conto di come cambia il livello tra me e mio fratello quando, quando arriva la pagina, quel momento di poesia viene da casa Veronesi. Sì, sì, sì. Volevo chiedere per concludere a Filippo e a Giovanni che cosa si sono portati a casa nella valigia da Cuba, e intendo dentro. Ma lui sicuramente rum, come dice sì, sempre. Io dico se è una bottiglia di rum che ancora incredibilmente non è finita. Mi sono portato a casa, insomma, tanti ricordi, sicuramente ogni tanto ci penso, sai, e sono contento perché non ricapita, capito? Cose così non ricapitano, oggettivamente. Poi magari andrò in un altro paese, però Cuba era bello, quindi lo ricordo con grande piacere. Tu, rum a parte? Rum a parte, guarda, io Facebook, sai, ogni giorno ti ripropone quello che hai postato un anno fa. Sì. Un anno fa avevo postato il biglietto di partenza per Cuba. E se io lo riguardo mi commuovo quasi, perché se penso alle esperienze che ho vissuto, che è una delle esperienze più belle della mia vita, mi ha proprio segnato. Io sono una persona diversa forse per quel mese lì, per quelle 5 settimane lì. In realtà noi siamo dovuti andarlo a prendere perché si era un po' perso, lui si era ubriacato una sera, l'abbiamo dovuto tirar fuori da una situazione spiacevole, però poi tutto a posto, il film poi si è concluso. Sì, sì, scherzando, è andato bene. Non è un paese per giovani, si un scherza, film che fa un po' bene, ma fa anche un po' male, e facendo un po' male fa un po' bene. Davvero grazie, grazie a Giovanni, grazie Veronesi, a voi, grazie a questi due splendidi, Filippo Scicchitano e Giovanni Anzaldo. Hai visto che non mi sono incartata stavolta, l'ho detto per bene. Grazie a grazie. Tutti. Ciao, grazie. Al cinema tutti. Il sabato del villaggio. Eccoci qui, vi avevo promesso di portarvi a un concerto? Ebbene, oggi vi posso regalare 5 coppie di biglietti per 2 date bellissime del nostro Gegette Lesforo. 5 aprile, Auditorium Parco della Musica, 8 aprile, Milano, Blue Note. Gegette Lesforo con il progetto UNICEF Sounds for Children, di cui da tempo è testimonial e parte attiva. Come fare? Beh, mandateci un SMS o un WhatsApp al 349-238-6666 scrivendoci questo. Allora, Gegè ci dice: la musica è stata la mia salvezza e oggi è la mia terapia. Tutto questo per UNICEF Sounds for Children, ma quello che io vi voglio chiedere è: quando la musica vi ha salvato la vita o semplicemente quando la musica vi ha fatto bene. Scrivetelo al 349-238-6666 via sms o via whatsapp. Le date sono due: 5 aprile Roma, Auditorium Parco della Musica, 8 aprile Milano, Blue Note. Scriveteci se preferite Roma o Milano. Aspetto i vostri messaggi al 349-238-6666 per andare a sentire il fantastico GG Telesforo. Che una pizza crescerà più forte. Vabbè, Pino Daniele aveva ragione, la pizza fa sempre bene. Certo che vale la pena mangiarla, è buona, di buona qualità. È una tendenza la grande pizza, ce lo dice il nostro Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, buongiorno. Ma tutti possono dire, possono pensare, ma che tendenza è la pizza che c'è da 100 anni? Sì, è vero, c'è di 100 anni, ma ora stanno succedendo dei fenomeni molto particolari, specialmente nelle città metropolitane. Perché? Perché tutti i numeri uno napoletani o campani stanno arrivando in massa nelle grandi città, aprendo delle nuove pizzerie. Qui cosa significa? Specialmente a Milano. Questo cosa significa? Significa che in questo momento veramente c'è un boom della pizza rispetto al passato e che i grandi maestri oggi si spostano, perché c'è una richiesta sicuramente qualitativa della pizza decisamente migliore che in passato. Perché diciamoci la verità, fino a qualche anno fa aprivano pizzerie ovunque, però la qualità in molti casi è molto scadente. Certo. Io sempre di più sento gente che dice: non digerisco la pizza, non digerisco la pizza. Se non la digerisci, sicuramente è un fatto di lievitazione, un fatto di farine, è un fatto di professionalità dei pizzaioli. E allora oggi a Milano, se uno si gira, sta diventando Napoli. Io dico che si è spostato a Napoli. Perché? Perché prima di tutto è arrivato Gino Sorbillo, uno dei grandi maestri della pizza napoletana, che addirittura non solo ha aperto la pizzeria Sorbillo, ma poi ha aperto Via Esterina per la pizza fritta e poi ne ha aperto un'altra, Sorbillo Olio e Crudo. Quindi la domanda c'è di pizzerie di grandi maestri. Poi addirittura a pochi chilometri da Milano, a Erbusco, in quello che era il luogo votato di un tempo di Gualtiero Marchesi all'Alberetta, è nato un chiosco dove si è trasferito un altro grande della pizza, questa volta non di Napoli ma di Caiazzo, quindi non è che siamo sempre in campagna, che si chiama Franco Pepe, quindi anche lui è arrivato. Poi è arrivato anche da Michele, altro pizzaiolo napoletano, che quando si va a Napoli uno fa la lista di dove andare a mangiare la pizza, da Michele è uno di quelli che mette è uno dei punti principali. Poi è arrivato Starita, un altro ancora importante. Ma il fenomeno non si ferma. Perché? Perché poi ci sono in giro per l'Italia altri pizzaioli che sono, diciamo, assurti alla gloria. Ad esempio c'è una pizzeria di Bologna che si chiama Berberè, molto nota per una pizza molto particolare, tutta bio, che addirittura nel giro di pochi mesi non solo è arrivata a Milano, ma è arrivata a Firenze, è arrivata a Torino, è arrivata a Londra. Quindi significa che sicuramente le pizzerie sono forse molto più imprenditoriali e organizzate della ristorazione, perché in poco tempo riescono ad aprire con una facilità enorme in tante altre città d'Italia. Ma l'elenco è veramente lunghissimo, perché potrei parlare di Friarie, Marghe, Gennaro Esposito, che non è Gennaro Esposito il noto ristoratore napoletano, anzi non è. Lui non è a Napoli, nelle vicinanze di Napoli, ma è un pizzaiolo che si chiama Gennaro Esposito. Gennaro Esposito probabilmente è un nome molto comune in giro per la campagna, direi, come Luigi Bianchi. È un bel biglietto da visita chiamarsi Gennaro Esposito e far la pizza. È un marchio di qualità. Poi ancora Lievità, Taverna Gourmet, poi Lentini, poi il Mercato del Suffragio. Insomma, nel giro di 12 mesi Milano è diventata Pizzopoli, secondo me. Cioè non lo so, cioè, se andiamo, un tempo Milano era famosa per le 99 hamburgerie, e quindi diciamo che era un po' la capitale delle hamburgerie in Italia, di questo sviluppo. Poi ora è diventata la capitale dei ristoranti di ramen, ma io dico che se andiamo a calcolare le pizzerie, diciamo che anche a Milano ormai non siamo Napoli, non è Napoli con un numero di pizzerie, ma ci si avvicina. Diciamo, diamo una soddisfazione una volta ai napoletani. Milano è diventata la succursale di Napoli. Ecco, è diventata una succursale di Napoli e ormai è diventata la seconda città italiana per la pizza. Diciamola così. Però c'è un fenomeno anche succedaneo alla pizza, diciamo, tradizionale al forno. È la pizza da taglio o la pizza da passeggio. Ecco, era quasi scomparsa perché negli ultimi anni, diciamo, si vedevano poco le file nelle pizze al taglio. Oggi anche questo sta vivendo un secondo fenomeno importante, sempre a Milano, perché è stata aperta Pizzità, mm-hmm. Pandemonium, e Johnny Pizzaiolo al taglio alla piazzetta. Insomma, anche qui ormai Milano sta diventando la succursale di Napoli, di Roma, scusate, perché in effetti la pizza al taglio, la pizza romana, come viene definita da distinguerla da quella napoletana, è questa pizza appunto che viene servita al taglio molto alta. Ecco, allora, Milano ormai sta diventando succursale di Napoli per la pizza, succursale di Roma per la pizza al taglio. Insomma, si deve difendere Milano, quindi perché va bene il ramen, ma vogliamo mangiare anche qualcosa di, insomma, di italiano. Certo. Sì. Prima abbiamo mangiato hamburger e ramen, cioè a questo punto mangiamo qualcosa di italiano. Milanesi, inventatevi qualcosa, insomma, di completamente milanese. Certo che a Milano c'è il panino. Ecco, il panino è molto diffuso, forse la città del panino, probabilmente Milano, perché Milano già da anni offre tantissime paninerie, chiamiamole così, e quindi probabilmente Milano ha una sua difesa di italianità, anche perché ora si parla sempre più di panino all'italiana, quindi panino all'italiana e non panino tout court, quindi panino all'italiana significa un panino fatto con un pane come Dio comanda e con degli ingredienti che siano completamente italiani, che quindi non ci sia l'hamburger in mezzo, ma ci sia formaggio, ci sia salumi, ci siano salse, insomma un'italianità anche nel panino. Insomma, diffondiamo un po' anche il qualcosa di milanese e di italiano. Oddio, il panino si mangia dappertutto, il panino alla mortadella, che forse è l'insegna del panino, si mangia da sempre anche a Bologna, a Roma. Ah, a Roma la pizza bianca con la mortazza. Con la mortaccia, quindi sicuramente è importante il panino alla mortadella. Però ci sono tanti altri panini ormai noti con tante cose importanti, tante salse, il balsamico, tante salse a base di pomodoro, quindi anche a base di erbe, ce ne sono tantissime a base di erbe, alcuni con il pesto, quindi anche qui andiamo invece a prendere a Genova e non prendiamo a Milano. Cioè, Milano, cioè fare il panino all'ossobuco è un po' dura, insomma, perché mettere dentro un ossobuco dentro un panino diventa completamente difficile. Davide, la chicca della settimana ce l'hai? Da regalarci? Oh, allora prendo nota, allora, dici. Prendi nota e vi porto in Piemonte. Vi porto in Piemonte e in Piemonte è noto che ci si va per il tartufo e non è vero, perché al Cascinale Nuovo di Isola d'Asti, che è all'uscita di Asti Est, quindi abbastanza comodo, Walter Ferretto e la famiglia Ferretto funzionano 12 mesi su 12 al meglio, quindi non solo tartufo, ma soprattutto anche in questo periodo, diciamo che la carta di Cascinale Nuovo è veramente molto intrigante e che, vabbè, sono le tre passate, ma fa sempre venire a fame. Ecco, in questo locale qui c'è uno dei piatti che io nella mia carriera considero cult, nel senso uno di quelli che non mi dimenticherò mai, ed è molto significativo ed è originale, creato da Walter Ferretto, unico. Si chiama Mille Foglie di Lingua di Vitello, Foie Gras e Dadini di Gelatina al Porto. Ecco, chi va in questo locale, mi raccomando, chiedete questo piatto goloso, allo stesso tempo raffinato, ma che rimane impresso perché è troppo intelligente, troppo buono, troppo intrigante. Ma ovviamente non solo questo, perché qui si mangia dei primi piatti con la pasta fatta in casa davvero eccezionali, ad esempio gli agnolotti ripieni di fonduta e peperoncino. Si mangia, ecco, un piatto tradizionale che ormai è scomparso anche dalle tavole piemontesi, è la finanziera. La finanziera è molto particolare, c'è chi la fa completa anche di creste di gallo, ma ormai non la fa più nessuno, con le creste di gallo anche. Qui si fa una finanziera astigiana con porcini all'agro, cervella dorata, insomma, non è quella tradizionale, però è una deviazione perché Walter è un creativo. Poi in prossimità della Pasqua, ecco, in prossimità della Pasqua ci sono dei piatti intelligenti come i tagliarin d'uovo con zucchine, scalogno e erba di San Pietro, oppure c'è anche un riso al verde, ecco, questo è proprio un periodo pasquale, e cosa non, a Pasqua non può mancare? L'agnello, animelle, verdure di primavera, vaniglia e agrumi, ecco, questo è il piatto succulento che mi rendo conto che molti che non mangiano la carne, bene, potrebbero mangiare i primi piatti e poi ricorrere a qualcosa di verdure che sicuramente c'è nella carta. E poi per finire, ecco, qui c'è un dolce che mi piace ricordare, perché molti fanno sempre dolci dolci, mm-hmm. ma c'è qualcuno che va a cercare anche, diciamo, qualcosa ad esempio nei legumi. Ebbene, Walter si è inventato un cremoso di piselli. Ecco, quindi, però dentro c'è cioccolato e lamponi, quindi diciamo che però questa combinazione tra piselli e cioccolato e lamponi è da provare, perché può sembrare a prima vista così disarmonica, in realtà poi quando si mangia è veramente molto ma molto intrigante. I vini, beh, qui c'è una ricerca fatta da Roberto Ferretto molto interessante, anche di vini soprattutto sconosciuti, che lui va a scoprire e poi dopo poco arrivano alla ribalta, perché sono sempre di grandissimo livello. Allora, dopo questo dolce a base di piselli, io me lo sono segnato perché questo mi ha fatto venire una grandissima curiosità. Davide, hai sempre delle chicche imperdibili, bisognerebbe ogni weekend andarne a visitare una. Grazie per essere stato con noi, Davide, il prossimo sabato, un abbraccio grande. Al prossimo, a presto. Un abbraccio al gastronauta, noi ci troviamo tra pochissimo per parlare di tecnologie, perché è già pronto il nostro Enrico Pagliarini, tra pochissimo. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme, vi ricordo 349-238-6666, 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp. Oggi vi regaliamo 5 coppie di biglietti per i concerti di Gegè Telesforo. 5 aprile Roma, Auditorium Parco della Musica, 8 aprile Milano, Blue Note. Ditemi semplicemente quando la musica vi ha salvato la vita o quando la musica vi ha fatto particolarmente bene. Insomma, le frasi più carine, i messaggi più belli. Lasciate scegliere me, posso scegliere io? I biglietti per Gegè Telesforo, Milano, Roma. Ci sono 5 coppie di biglietti per questo sabato del villaggio. Sono molto contenta di portarvi a sentire della buona musica. Stiamo per parlare di tecnologie? Stiamo per collegarci con Enrico Pagliarini? Io lo introdurrei così. Redding cantava tanti tanti anni fa I want security and I want it at any cost. Ovviamente parlava di una sicurezza un po' diversa di quella di cui stiamo per parlare adesso. Voglio sicurezza e la voglio a tutti i costi. Quindi io voglio a tutti i costi la sicurezza in fatto di tecnologie, perché in questi periodi ci sono delle cose che mi fanno un po' spaventare, e ogni volta che leggo delle notizie che io non capisco, delle cose che appunto mi fanno spaventare, mi inquietano, io chiedo tutto a Enrico Pagliarini. Da un po' non glielo chiedo più così internos tra me e lui alle scrivanie della redazione, ma glielo chiedo direttamente in onda, perché così soddisfiamo delle curiosità che sono sicura sono anche dei nostri ascoltatori. Ciao Enrico! Buongiorno a tutti. Ma è come se fossi qui anche oggi, eppure sei sempre nei tuoi luoghi misteriosi. Hai sentito questo pezzo? Security, I want security and I want it at any cost. Mi chiedo dove sia il tuo archivio, perché io non ho mai sentito questa canzone. Bello. Sì, divertente. Ho una lunga memoria. Enrico, questa settimana abbiamo sentito parlare tanto del bando dei tablet a bordo di alcuni voli. Allora, sicuramente ci sono motivazioni politiche, sappiamo che le motivazioni possono essere tante, però siccome si parla di motivazioni di sicurezza, io voglio capire se è davvero pericoloso che qualcuno possa portare dei tablet, dei laptop in volo. Cioè, ci sono dei rischi. Perché questa misura di sicurezza, Enrico? Hai detto bene, allora lasciamo perdere le motivazioni politiche, ci sono anche, anche se la questione è molto dibattuta, molto controversa, ci sono anche alcune ragioni tecnologiche. Allora spieghiamo che cosa è successo. Gli Stati Uniti hanno deciso e poi la Gran Bretagna ha preso la stessa decisione di vietare a tutte le compagnie che arrivano, quindi compagnie aeree che arrivano da alcuni paesi, sono 8 paesi per gli Stati Uniti, un po' meno per la Gran Bretagna. In Europa si è pensato di farlo, per il momento non ci riguarda, si è pensato di vietare di portare a bordo computer portatili, tablet e altri strumenti, diciamo che siano più grandi di uno smartphone, cioè gli smartphone sono consentiti. Allora, la motivazione principale è che le intelligence americane e anche altre intelligence ritengono che i terroristi possano pensare di introdurre all'interno di un computer portatile una sorta di esplosivo, cioè trasformare un computer portatile in una bomba. Però e questa cosa anche è piuttosto inquietante, Sì, anche se devo dire molto complicato, molto difficile, perché avrete notato che in alcuni casi ad alcune persone viene fatto aprire il computer portatile e viene fatto accendere il computer portatile, quindi nascondere un esplosivo facendo comunque funzionare il computer portatile è una cosa abbastanza complicata. Però diciamo al di là anche delle ragioni che possono avere insomma una motivazione politica, ci possono anche essere dei motivi legati alla tecnologia e legati alle batterie, perché c'è chi ha ipotizzato che si possa sfruttare la batteria per trasformarla in esplosivo. In effetti, recentemente abbiamo commentato noi, insomma tantissimi hanno commentato quello che è successo ad esempio con il Samsung Galaxy Note 7, molte certo. compagnie lo hanno vietato proprio per motivi di sicurezza, proprio perché allora, dire esplodeva è un po' esagerato, però sicuramente ci sono stati alcuni casi, rari, ma ci sono stati, di batterie di questi smartphone che prendevano fuoco. Stiamo parlando di oggetti che sono un concentrato di energia e un concentrato di chimica, quindi in alcuni casi possono prendere fuoco. Non vorrei ricordare anche che sugli stessi aeroplani, sui 787, qualche anno fa in Giappone sono successi casi di surriscaldamento e di quasi esplosione di batterie, tant'è che questi aeroplani vennero messi a terra per alcuni mesi. Quindi il problema legato alle batterie, agli ioni di litio, che sono quelle più diffuse sui sistemi elettronici che noi abbiamo in tasca e che usiamo tutti i giorni, è un problema. Però, è un problema molto raro, perché comunque anche questi casi, che non sono ovviamente legati a motivi di terrorismo, sono rari, però chi si occupa di sicurezza deve guardare anche a questo. Che cosa impariamo, che cosa possiamo raccogliere da quello che sta succedendo? Beh, allora, che effettivamente ci possono essere problemi legati al surriscaldamento delle batterie. In alcuni casi il surriscaldamento della batteria è dovuto a una cattiva progettazione delle batterie, e su questo ci possiamo fare molto poco. Quando i casi sono eclatanti, le batterie vengono ritirate dal mercato, o comunque gli strumenti, i terminali, gli smartphone o qualsiasi altra cosa vengono ritirati dal mercato. Però noi possiamo imparare una cosa, ad esempio a non maltrattare il telefono, perché una batteria danneggiata è più sensibile a malfunzionamento e quindi anche a surriscaldamento. La batteria del nostro smartphone soffre il caldo, quindi se noi la esponiamo al caldo, la maltrattiamo e potrebbe anche succedere insomma qualcosa di dispiacevole. Allora, mai nessuno è morto perché gli è scoppiato il telefono in tasca. Però c'è anche chi si sta domandando in questi giorni che cosa può succedere ad una batteria di un computer portatile che dovesse infiammarsi nella stiva di un aereo e magari vicino ci sono degli altri elementi che possono infiammarsi. E c'è chi dice sarebbe meglio avere la batteria e quindi il computer portatile vicino a noi perché ce ne accorgiamo subito, piuttosto che nella stiva. Però questo, insomma, invece lo di tranquillizzarmi, mi è un po' inquietato, però fa niente. Sì, sì, allora, ripeto che stiamo parlando di casi abbastanza rari, eh? Però non improbabili, o comunque non impossibili. A proposito di calore, in teoria, anche se purtroppo la vita di tutti i giorni ci dimostra che sono ormai diffusissime, le cover dei telefoni, non sono, o comunque alcuni tipi di cover, non sono molto amiche delle batterie, perché creano una temperatura che potrebbe in alcuni casi danneggiare la batteria. Tutto quello che fa riscaldare troppo la batteria di qualsiasi strumento elettronico, adesso prendiamo lo smartphone come esempio, ma anche di altre cose, non va bene. Quindi, diciamo, se uno potesse, dovrebbe utilizzare o una cover molto leggera o addirittura non utilizzarla. Magari d'estate potrebbero fare delle cover raffreddanti. Sì, questo è un... c'è chi dice che le batterie del futuro saranno, o comunque i terminali del futuro avranno dei sistemi con un liquido per raffreddare tutto il terminale. Vedremo. Quindi io dico delle scemenze, ma sì, tutto sommato. Allora Enrico, traffico e poi ci ritroviamo tra pochissimo, ok? A tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Il sabato del villaggio. Rieccoci con Enrico Pagliarini. Enrico, so che volevi segnalarci qualcosa anche in merito a novità sulle tariffe, delle decisioni importanti. Sì, sì, allora non parlo molto spesso di tariffe perché è un tema complicatissimo. Penso che nessuno possa definirsi esperto di tariffe, perché è veramente una delle cose più complicate. Le centrali nucleari sono più semplici. Però c'è una buona notizia, e questa è facile da capire: l'autorità per le comunicazioni, l'AGCOM, ha ordinato alle compagnie telefoniche, per quanto riguarda gli abbonamenti a sia la telefonia che ad internet fissi, di non fare tariffe, fare tariffe mensili. Sapete che adesso c'è questa moda di fare tariffe ogni 28 giorni, il risultato è che praticamente paghiamo un mese in più all'anno. Questo succede nella telefonia mobile. La Agcom ha ordinato alle compagnie di non fare la stessa cosa per la telefonia fissa, che è una buona notizia. Sono contenta, sono d'accordo con te. Enrico, l'appuntamento con noi è il prossimo sabato, però rimani all'ascolto, perché visto che sei molto appassionato di cinema, parliamo dei film in sala. Ciao Enrico. Ciao, ciao, ciao. Ho conosciuto uno. E dove? A casa dei amici di mia madre. Quindi questa è una vecchia? Non è una vecchia, c'è la nostra. Potremmo uscire insieme uno di questi giorni? Tu non hai ragazzo. Ci siamo lasciati 3 giorni fa. Sono a pezzi, come avrei capito. Sono in ritardo, di 3 settimane. Che pensi di fare? Non lo so. Io lo voglio tenere. Lei vuole un figlio del no, scappa, datte. Oh, ma che dici? Così, dico, per assurdo, ragionavo per assurdo. Ho 32 anni e sto per diventare nonna. Secondo te cos'è, sfiga o abbiamo una maledizione? E questo è come sempre il momento delle uscite al cinema del fine settimana. Abbiamo già parlato di Non è un paese per giovani, sono stati con noi il regista Giovanni Veronesi e i due splendidi protagonisti Filippo Scicchitano e Giovanni Ansaldo. Però adesso andiamo a vedere gli altri film che escono durante il fine settimana. Ne parliamo ovviamente col nostro Franco D'Assisi, al quale chiedo subito di questo slam Tutto per una ragazza, perché ne ho sentito parlare molto bene. So che addirittura sarà su Netflix, quindi insomma ha conquistato anche la piattaforma mondiale di Netflix. Allora, lo vado a vedere. Ciao Franco D'Assisi. Franco, vado a vedere Slam Tutto per una ragazza? Ciao Marta, sì, vai a vederlo perché è un esperimento che si inserisce tra l'altro in un filone italiano molto interessante, una sorta di nuovo cinema che cerca il genere, lo cerca però con gli stilemi americani, cioè quelli proprio che hanno anche fatto la ricchezza di linguaggio e di popolarità, per esempio, delle recenti serie TV. È un film, questo, intanto diretto da un Andrea Molaioli che avevamo conosciuto con un esordio fulminante, che era La ragazza del lago con Tony Servillo, ricorderete, un giallo vero e proprio. Aveva continuato con Il gioiellino, che era un film, un thriller finanziario, e adesso si trova in una commedia giovanile, ma con un taglio, come dicevo, secondo me molto americano, cioè quello di raccontare un sedicenne al suo passaggio della linea d'ombra nei rapporti con una madre ancora giovane, che è interpretata da Jasmine Trinca, nel rapporto con un idolo che è un campione di skateboard, perché questo ragazzo ha una grande passione per lo skateboard, che però lui interpella, con il quale si confida attraverso il poster in cameretta, insomma, come forse abbiamo fatto tutti quando eravamo ragazzi. Insomma, c'è il tentativo di raccontare e costruire un mondo adolescenziale, che però è pronto a guardare fuori un po' dalla sua sfera, ad abbandonare questo passaggio della propria età e ad arrivare verso il mondo adulto. Franco, poi esce finalmente nei cinema un film molto atteso, A chi lo consigli? Lo andiamo a vedere? Arriva nelle sale Elle, ed è un film veramente straordinario, un Paul Verhoeven dannata, potremmo dire, sempre un po' disturbante, sempre un po' al limite, soprattutto quando racconta come il sesso possa impattare sulla nostra vita. Ricorderete Basic Instinct, tanto per dirne uno. Ecco, Elle trova però una protagonista che è veramente sempre più clamorosa. Stiamo parlando ovviamente di Isabelle Huppert, che ha vinto il César per questa interpretazione. Il film ha avuto nomination agli Oscar, ai Golden Globe e ovunque, ed è una storia totalmente disturbante. Io voglio proprio vedere quale sarà la reazione del pubblico femminile, perché si mette in scena sostanzialmente uno stupro, ma lo si fa con una protagonista femminile che ne esce come se nulla fosse successo, almeno esteriormente. Certo che dentro è tutta un'eruzione che porta poi ovviamente ai comportamenti e agli atteggiamenti che Isabelle Huppert avrà nel film, che è un dramedy, diciamo così, un po' drama, un po' commedia, ma dove la tinta però delle atmosfere è la tinta noir. E quindi c'è questa donna che prima sembra che non le sia successo niente, poi comincia quasi a inseguire e forse addirittura a stuzzicare il proprio aggressore, fino a stabilire con lui un rapporto ovviamente morboso. È una prova d'attrice incredibile quella di Isabelle Huppert, che vale davvero il prezzo del biglietto, come si suol dire, perché cinema così, con questi stilemi di originalità, se ne fa davvero poco. Terzo consiglio, penso soprattutto a quelli che vogliono il filmone americano, magari per questa settimana un film di fantascienza, uno di quelli con i grandi attori, con le storie che ci tengono in sospeso. Che cosa esce questa fine settimana? Ma guarda, arriva nelle sale questo Life, Non oltrepassare il limite, è sottotitolo italiano ovviamente, che anche qui abbraccia una ritrovata passione del cinema internazionale e americano in particolare, perché è quello che ha i budget per fare questi film, per la fantascienza, quella con le astronavi, quella con i mondi ultraterreni che ci vogliono forse invadere o forse no, con le vite oltre il nostro sistema solare, insomma quella fantascienza di viaggio, di spazio, che ci ha tanto affascinato negli anni 70-80. Qui c'è l'equipaggio di una stazione spaziale che sta per fare il suo ritorno sulla Terra con la pistola fumante, diciamo, come si diceva, cioè con la prova dell'esistenza della vita su Marte. Solo che questa prova, ingabbiata dentro una provetta, cresce molto e sta diventando anche molto pericolosa durante questo viaggio di ritorno, e diventa una minaccia, cioè ci stiamo portando in casa la minaccia per la nostra umanità. È un film che vede un cast importante, capitanato da Jake Gyllenhaal, ma che vede anche Ryan Reynolds, tanto per dare il nome di un altro attore piuttosto popolare, che accontenterà, come dicevi tu giustamente, quelli che hanno quel tipo di fantascienza nella testa, e che rappresenta sicuramente un intrattenimento di grande livello visivo. Grazie Franco, dunque ci sentiamo più tardi dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Ci sentiamo più tardi con tutti gli ascoltatori di Radio 24, saranno con noi, tra l'altro, oltre a tutto il cast Non è un paese per giovani, anche Giampiero Ingrassia, per raccontarci il musical Serial Killer per signora, quindi fra poco. Il sabato del villaggio. Ed eccoci insieme con la seconda ora del nostro Sabato del Villaggio. Subito i numeri per raggiungerci: 349-238-6666, 349-238-6666 per WhatsApp e SMS. Stanno arrivando un sacco di messaggi per i due concerti di Gegé Telesforo: 5 aprile Roma, Auditorium Parco della Musica, 8 aprile Milano, Blue Note. Abbiamo 5 coppie di biglietti per voi. Vi ho chiesto di raccontarmi quando la musica vi ha salvato la vita, quando vi ha aiutato. Stanno arrivando un sacco di messaggi. Scelgo io, vi fidate? Scelgo io i più carini. Allora impegnatevi e soprattutto diteci se volete andare a Roma o a Milano. Di cosa parleremo in questa seconda ora del Sabato del Villaggio? È con noi uno dei cantanti più bravi, ma soprattutto più simpatici. Al Sabato del Villaggio arriverà Clementino. Poi bellezza, bellezza con tutte le novità in fatto di make-up e non solo, nello spazio dei consumi con Maria Luisa Pezzali, i libri del momento come sempre con Alessandra Tedesco, ma cominciamo parlando di una serie TV incredibile, ma vero, ma c'è un anniversario. Ragazzi, mandatemi a casa contento, con una bella scena. Dai, la possiamo fare. Dai, che può venire bene, conto su di voi. Dai, ci tengo da morire a sta scena. Come al solito. No, Duccio, no, come al solito. No, qui la possiamo fare meglio questa cosa qui. La possiamo fare molto, ma molto meglio. Possiamo dare dignità anche a questa roba qua. Signori, lo dico a tutti. Se c'è qualcuno che mi dimostra lassismo, da oggi in poi lo caccio. Giuro, lo caccio, chiaro? Dai, Duccio, dammi una mano a me. Dai, Biasi, dai, che ce la fai? Dai, dai, dai. Gli occhi del cuore, gli occhi del cuore, Doris. Userò gli occhi del cuore per capire i tuoi segreti. Io ormai sono ore che canto Gli occhi del cuore aggirandomi in redazione perché l'ho riascoltata. Ragazzi, ma ci potete credere che Boris compie già 10 anni? No, non è possibile, perché noi continuiamo a citare questa serie TV incredibile. E io l'ho scoperto perché in questi giorni c'è il Sotto 18 Film Festival Campus a Torino, dal 31 marzo al 7 aprile, e tra le varie cose che si festeggiano ci sono i 10 anni di Boris. Ho controllato, e no, è proprio vero, perché Boris è andato in onda in prima visione su Fox dal 16 aprile al 9 luglio 2007, ma sono proprio 10 anni e sembra ieri. Ma perché ci è rimasta così tanto nel cuore? Io vorrei proprio provare a chiederlo a René Ferretti, o meglio a Francesco Pannofino. Buonasera Francesco. Ciao, ciao, buonasera a voi. Ma ciao. Francesco, 10 anni, ma non è possibile? Mannaggia, sembra ieri, incredibile. Cioè, a noi che l'abbiamo amata tanto sembra assolutamente ieri. E a te? Anche a me, anche a me. Mi sembra veramente ieri e... non lo so, si ammazza come passa il tempo, questo è inquietante. No, niente, la scena che avete mandato in onda adesso me la ricordo molto bene, fa parte ancora della prima serie, di quella appunto di 10 anni fa. Noi l'abbiamo girata a cavallo tra il 2006 e il 2007 e poi ha cominciato ad andare in onda, come hai detto tu, ad aprile. Ma tu te lo aspettavi che René Ferretti potesse diventare davvero così tanto un mito? Cioè, ancora secondo me la gente ti chiede di lui. Come no, tantissimi, sì. Io le persone che mi avvicinano per strada, in giro, adesso sto in tournée, quindi faccio teatro, vado in giro per l'Italia, e quelli che mi avvicinano, perché sono i fan di Boris, li vedi dagli occhi, cioè hanno una luce particolare negli occhi. No, beh, noi cominciamo questa avventura abbastanza consapevoli di fare una cosa insomma di rottura, una novità originale rispetto alle fiction che si fanno di solito, però non potevamo immaginare che tutto questo ci scoppiasse in mano così, insomma, in questo successo incredibile, e ne siamo contenti. Credevo che quando hai detto che si riconoscono subito i fan di Boris, pensavo perché ti chiedessero se gli straordinari di aprile erano stati pagati, perché insomma, gli straordinari d'agosto, no, di aprile, quelli di Libeccio, gli straordinari di Libeccio. Magari fosse questa la domanda, a me mi chiedono chi ha ammazzato il Conte. Ah, beh, certo, e tanto lo sappiamo chi è stato. All'aeroporto di Fiumicino c'è un al varco lì della sicurezza, ci sono degli addetti lì che sono dei fan di Boris scatenati, e non mi fanno passare se io non rispondo a questa domanda: ma chi ha ammazzato il conte? Purtroppo è una parolaccia. Cioè, siamo in fascia protetta e non si può ripetere. Non si può ripetere, che meraviglia. Però insomma io sono costretto a dire quella parola lì ogni volta, se no non mi fanno passare. Parola d'ordine. Francesco, c'era molto di vero di serie televisive come si facevano un tempo in Boris. C'è ancora qualcosa di vero? O meglio, è cambiato o sono ancora un po' fatte così alcune? Ma guarda, ti dico una cosa, quando io non solo io, insomma tutti quelli che hanno partecipato a Boris, gli attori poi hanno fatto altre fiction nella loro carriera, continuano a fare eccetera, noi sui set di queste fiction siamo veramente dei miti, perché oppure sui set televisivi, delle cose, vengono queste persone con gli occhi gonfi e ci dicono: qui è il vero fango, qui è Boris, qui è gli occhi del cuore, capito? Cioè si ripropone, perché gli autori di Boris sono stati bravi a ricreare una situazione che si propone spesso sui set delle fiction. Non è sempre così, per carità. No, certo. Anche perché Boris comunque riassume e mette insieme situazioni limite, paradossali, che magari succedono una volta ogni tanto, messe tutte insieme in fila, una dopo l'altra, creano veramente un effetto comico devastante. Quando si fanno i dibattiti su Twitter, questa trasmissione è brutta, è bella, c'è sempre qualcuno che manda un link con questo video. Senti qua, Francesco. Sì. Occhi del cuore 3, 1 bis prima. Sì, signori. Avete capito bene? Occhi del cuore 3. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Un'altra televisione diversa! È impossibile! Vabbè, una parolaccina di René Ferretti ci stava. Perché vabbè, quando ci stava, che grande René Ferretti. Senti, Francesco, però abbiamo detto 10 anni di Boris. Tu sei a teatro con i suoceri albanesi, ho letto bene? Sì. Che sì. Cos'è? È una commedia di Gianni Clementi che racconta la situazione di una famiglia, moglie e marito, di idee progressiste, eccetera, accoglienza, solidarietà, eccetera, eccetera. Poi quando la figlia ribelle si fidanza con un albanese, le cose cambiano, le prospettive, i punti di vista, succedono insomma situazioni paradossali che fanno molto ridere anche qui. E devo dire che è stato un altro successo questo Suocere Albanese, pensa che è il terzo anno che lo portiamo in giro per l'Italia. Oggi siamo a Catanzaro. Ah, che bello, ti abbiamo colto in Calabria, che meraviglia. Esatto, siamo a Catanzaro, stasera facciamo la replica al Politeama di Catanzaro, che mi dicono sarà pieno di gente, insomma. E appunto mi capita, come ripeto, che insomma ci sono tante persone che arrivano con la nostalgia di Boris. E devo dire che non solo loro, anche parlo per me, ma so benissimo di parlare anche a nome dei miei compagni di lavoro, abbiamo tutti nostalgia di Boris e tutti avremmo voglia di fare anche ancora una serie. Ah, sarebbe bellissimo, ragazzi. Dovete intervenire presso gli autori, sono loro che si devono mettere all'opera. Ah, io glielo dico assolutamente, ma magari sono ancora là sulla barca al largo e non hanno voglia. E non hanno voglia di mettersi al lavoro. No, lo so, loro si rappresentano così, ma in realtà lavorano sodo. Il problema è che ognuno fa una cosa diversa, insomma, di metterli insieme diventa un po' complicato, ma insomma, non credo che sia impossibile. Sarebbe veramente una qualcosa di meraviglioso. Io glielo ho detto agli autori, prima che diventiamo tutti vecchi, rifacciamolo un'altra. Ecco. Visto che ce la chiedono dappertutto, insomma. Sarebbe meraviglioso. Sarebbe ora nel decennale della prima messa in onda, sarebbe veramente un grandissimo regalo. So per che tutti. Ci sono anche delle iniziative, ne hai detta una prima poco fa tu, a Torino, no? Sì, al Sotto 18 credo sia la prima, insomma, di festeggiamento, perché inizia questo decennale. Esatto, e quindi io purtroppo non ci potrò essere perché sono in giro per l'Italia, però manderò un video di ringraziamento ed è, insomma, per un dai dai dai, insomma, un dai dai dai, bravo. Grazie a Francesco Fannofino, molto contenta di averti avuto con noi, e noi davvero facciamo il tifo perché possa ricominciare, che ci possa essere almeno un'altra stagione di Boris dopo tanti anni. Grazie Francesco, dai, speriamo bene. Ciao, grazie a te, buon lavoro e un saluto a tutti, un abbraccio, e io lo dico una parolaccia, merda per questa sera a teatro. Noi ci ritroviamo tra poco dopo il traffico, abbiamo ancora un sacco di pagine del nostro Sabato del Villaggio. E quindi, signori, dai dai dai dai che spacchiamo tutto. Il Sabato del Villaggio. E prima di parlare di libri, fatemi fare una brevissima segnalazione. Ci sono gli ultimissimi biglietti per un incontro che faremo il 4 aprile alle 15 all'Università Bicocca di Milano. Perché qualcuno qualche tempo fa mi aveva detto: ma come? Ma Mannarino mai al Sabato del Villaggio? Chissà come mai non volete Mannarino al Sabato del Villaggio? Perché avevamo in mente di organizzare una cosa molto bella, e quindi saremo con Alessandro Mannarino alla Università Bicocca di Milano, Aula Magna, il 4 aprile alle 15. Allora andate sul sito di Radio 24, ci sono tutte le istruzioni, perché i biglietti sono gratuiti ma il biglietto ci vuole, quindi andate sul sito di Radio 24 e troverete tutto. Oggi mi incastro con la lingua. Andate sul sito di Radio 24 e troverete tutto. E adesso è piena di R questa frase, parliamo di libri. Non è proprio giusto, giusto, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, state per sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, e chi è così brava? Lo chiediamo subito ad Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta, la brava di oggi è Teresa Ciabatti. Quanto te lo dico, mi piace così, proprio senza tanti giri di parole, perché chiaramente, come si è notato, la scorsa settimana ero giù di voce, sono stata a casa, ho potuto dedicare questa settimana alla lettura. Puoi quasi cantare come Mina. Sì, vabbè, quasi. Neanche nei periodi migliori. E ho letto tre libri che veramente mi hanno folgorato. Il primo è questo di Teresa Ciabatti, La più amata, pubblicato da Mondadori. Tra l'altro è un libro di cui si sta parlando tantissimo. A volte, sai, non è che i libri di cui si parla corrispondono esattamente, certo, certo, a quello che può essere il mio, il tuo gusto, eccetera, però comunque ne parliamo. In questo caso, guarda, c'è una, come dire, una condivisione perfetta. Quindi è il libro di cui si parla, ma è anche il consiglio di cuore di Alessandra Tedesco. Assolutamente, è un libro, io l'ho definito un ciclone, perché è un libro travolgente, sia per la trama, per i fatti che racconta, che per il modo in cui è scritto con un ritmo quasi urlato a volte da Teresa Ciabatti. Che storia è? È la storia della sua vita, è la storia dei suoi genitori, soprattutto di suo padre, che era un famoso primario chirurgo ad Orbetello, e della madre. Il fatto è una storia che ha attraversato la storia con la S maiuscola dell'Italia. Quest'uomo che tutti chiamavano il professore, tutti temevano, tutti adoravano, poi si scopre essere stato massone. Lei a un certo punto, quasi alla fine del romanzo, lo definisce un fascista massone, poi dice ancora un uomo ateo, bugiardo, senza scrupoli. Insomma, questa bambina Teresa nasce e cresce con l'ideale chiaramente del padre, innamorata del padre, un uomo molto ricco, molto rispettato, molto famoso appunto a Orbetello e dintorni, e lei è una principessa, è viziatissima, è molto raccomandata dal padre, dalla sua famiglia e così via. E lei, solo da adulta, a distanza di molti anni dalla morte del padre, riesce a ricostruire veramente, in modo vero, verosimile, questo non lo sapremo mai, la storia di suo padre, quest'uomo veramente arrogante che ha mentito per un'intera vita, aveva accanto una moglie che di fatto è stata schiacciata dal peso di quest'uomo. E lei, Teresa Ciabatti, lo racconta con una forza, una potenza incredibile, una rabbia, quasi una voglia di vendetta, perché in alcuni punti dice: quella che sono io ora è frutto chiaramente di quello che sono stati i miei genitori, mio padre. A un certo punto scrive: mi chiamo Teresa Ciabatti, ho 44 anni e a 26 dalla sua morte, dalla morte di mio padre, decido di scoprire chi fosse davvero mio padre, diventa la mia ossessione. A 44 anni do la colpa a mio padre per quello che sono: anaffettiva, discontinua, egoista, diffidente, ossessionata dal passato. Litio, Effexor prima, Prozac, Rivotril poi. Colpa tua, solo colpa tua, papà. Accidenti, io non vedo l'ora di leggerlo, ma a chi lo consigliamo, Alessandra? Posto che ti è piaciuto talmente tanto che so che lo vorresti consigliare a tutti. Guarda, quando ho finito di leggere questo romanzo ho pensato a una frase del film Pretty Woman. È presente quando lei dice mi si aggrovigliano le budella? Mm-hmm. Ecco, a chi ha voglia di farsi aggrovigliare un po' le budella da un libro che legge? Accidenti. Allora, ancora libri, appunto, cosa hai letto questa settimana in cui sei stata un po' malatina e ti sei innamorata di tre libri? Guarda, questo libro si intitola Tre piani, l'ha scritto l'israeliano Eshkol Nebo, pubblicato in Italia da Neri Pozza. È un libro che io ho letto sul cellulare perché avevo dimenticato la copia qui in radio e quindi essendo a casa mi si era rotto anche il mio e-reader e quindi l'ho letto proprio espressamente tutto sullo smartphone e me lo sono bevuta veramente in pochissimo tempo. Anche in questo caso parliamo di una scrittura ritmata, accattivante, veramente travolgente. Lo scrittore immagina una palazzina con tre piani, a ogni piano c'è un protagonista, diciamo, di questa storia. Sono tutte persone che hanno un'incredibile voglia di raccontare un segreto. Un proprio segreto, hanno voglia di raccontarsi, di confessarsi a qualcuno. Al primo piano c'è una coppia, Armon e Ayelet, che affidano spesso la figlia, una delle figlie, a una coppia di anziani vicini. E lui, Armon, sviluppa tutta una serie di sensi di colpa, perché un giorno, insomma, l'ennesimo giorno in cui lasciano questa bambina, la bambina sparisce con quest'uomo anziano, lui pensa che questo anziano abbia abusato della sua piccola e da qui inizia il suo tormento, senso di colpa, che gli fa commettere un errore dopo l'altro. Al secondo piano invece c'è un'altra donna, Annie, che scrive una lunga lettera ad un'amica che vive negli Stati Uniti, una lettera in cui fa capire di fatto che non conosce per niente l'uomo che le sta accanto, il marito, e forse neanche se stessa, perché si trova a fare delle cose che non avrebbe mai immaginato. E al terzo piano c'è una donna più anziana, un magistrato in pensione, che parla con il marito morto, cioè confessa i suoi segreti al marito morto registrando dei messaggi su una segreteria telefonica. Guarda, bellissimo. Tre storie appassionanti che tu consigli a chi, Alessandra? Guarda, a chi ama esplorare the dark side of the moon, the human being, dell'essere umano, insomma, gli aspetti, appunto, il segreto, la voglia di confessarsi magari a qualcuno che è lontano da noi, non ci conosce, proprio per questo è il nostro confessore ideale. Accipicchia, anche questo mi piace. Non so, dovrei prendermi qualche giorno di ferie e lo farò prima o poi per leggere la laringite. No, speriamo di no, per leggermi tutto quello che consigli, perché davvero mi sembra un periodo in cui stanno uscendo cose molto belle. Belle, sì. E questo terzo libro di cui ti sei invaghita? Guarda, mi è piaciuto questo libro perché mi sono fidata di chi l'ha consigliato. Ok, ok, perché quello che chiediamo noi ai nostri lettori, di fidarsi di te, tu di chi ti fidi? Allora, io mi sono fidata in questo caso di Massimo Carlotto, che compare sulla copertina di questo libro, definendolo un autore imprescindibile. Quindi è un noir questo libro? È assolutamente un noir. Lui, l'autore imprescindibile, Malcolm McKay, autore di Bastardi, pubblicato in Italia da SEM, che è una piccola casa editrice nata più o meno un anno fa a Milano. E lui è sostanzialmente, questo Malcolm McKay, è il re del noir scozzese, viene chiamato anche Tartan Noir. Molto molto carino, e lui vede in questi suoi romanzi, tra l'altro anche in Bastardi, il crimine come business. Lui indaga sempre sull'industria del crimine, tant'è vero che per questo autore i killer, protagonisti dei suoi romanzi, non è che uccidono così per diventare ricchi, cioè è sostanzialmente il loro modo di guadagnarsi la pagnotta a fine mese, cioè lo considera come una forma, i criminali sono dei dipendenti del sistema criminale. Sono tutti romanzi ambientati a Glasgow, questa città scozzese, diciamo, più dura, più aspra rispetto a Edimburgo. E tra l'altro qui la violenza non è mai gratuita, è molto presente, ovviamente. Ecco, infatti io quando parliamo di noir o di thriller ti chiedo sempre quanto sangue c'è, perché così capiamo quanto può essere impressionabile. Non è che fa paura, però la violenza c'è ed è considerata sempre come un mezzo per raggiungere il business, quindi è una visione quasi fredda e distaccata del mondo della criminalità scozzese. Interessante vedere come per esempio c'è tutto un giro in cui si affittano le armi, le pistole, perché le pistole costano molto e quindi uno le affitta per 2 o 3 giorni, compie una determinata azione e poi la restituisce. Ah, buono sapersi, no, sto scherzando. Alessandra, vedo che l'ultimo libro è tutto tutta un'altra storia. E beh, adesso ti riprendiamo un po' fiato dopo questi tre libri. Dopo aver parlato di storie tutte molto intense, il terzo libro, il quarto libro, anzi, è tutta un'altra storia. Sì, è per bambini, diciamo subito. È Winnie the Pooh, l'orsetto migliore del mondo, pubblicato da Electa Kids. Tu direi sarà la solita storia di Winnie the Pooh. No, perché in occasione del 90° anniversario della nascita di Winnie the Pooh e a 40 anni dall'ultima pubblicazione inedita, questo volume presenta 4 storie inedite che sono state scritte chiaramente da autori contemporanei, che però si sono basati su degli appunti, su delle tracce originarie dell'autore di Winnie the Pooh. Quindi insomma sono 4 storie inedite e naturalmente si svolgono sempre nel Bosco dei 100 Acri, ci sono le 4 stagioni e possiamo dire che lo consigliamo ai bambini fra i 4 e gli 8 anni. Siccome è un'edizione molto bella, di quelle con le copertine pesanti e delle belle illustrazioni, ti faccio la solita domanda. Neanche te la faccio, so già cosa ti chiedo. Il prezzo, allora, il prezzo è 19,90, quindi 20 euro insomma. No, gli ascoltatori lo sanno, non è che sono così interessata ai soldi, ma semplicemente siccome sono delle edizioni molto ricche, magari qualcuno vuole acquistarla per un regalo, per un regalino a un bimbo, insomma, spesso queste edizioni ricche sono anche costose invece... No, io ti dico sempre che costano meno di un videogioco. Adesso molto meno. Tutti i produttori di videogiochi mi scriveranno in segno di protesta. Un po' però, un po'. Sai, insomma, io devo portare l'acqua al mulino dei libri, perché è il mulino che mi piace. A proposito di libri, il cacciatore di libri, quando e con chi, Alessandra? Sabato mattina alle 6:30 e alle 22, ospiti a sorpresa, non vi dico niente. Non ah, vi quindi dico questa niente, sera non vi a sorpresa? Niente, a sorpresa, e poi c'è sempre il podcast. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Baci. Il sabato del villaggio. Allora, il premio, quello antirumore, è il mio preferito, lo adoro, sono una grande tifosa di questo premio perché la mia lotta al rumore è sempre presente. Bravi, bravi, quelli di Mebius hanno sempre delle bellissime idee. Allora, vorrei ricordarvi che questo nostro pomeriggio del sabato va avanti fino alle 18 e abbiamo un sacco di ospiti pazzeschi, perché tra poco sarà con noi al sabato del villaggio Clementino, che è fighissimo, è simpaticissimo, ha fatto un disco, vabbè, tra poco avremo Clementino. Nell'ora di RadioTube parleremo della visita del Papa in questi momenti a Milano e a Monza e avremo un retroscena molto molto molto carino. Ho già postato qualcosa su Twitter, il mio account è @MartaCagnola, ma insomma lo scoprirete dopo. E poi ci sarà con noi nella seconda parte di RadioTube Michele Bravi, quindi un sacco di ospiti per questo sabato del villaggio. Adesso però apriamo la pagina dei consumi. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. Io sono bella, anzi bellissima, me lo dico da sola, anzi è bella, anzi bellissima, anche Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Beh, siamo tutte bellissime, buon soprattutto alla Marta. Radio, esatto. Alla radio siamo degli splendori e non ci vede nessuno. Fantastica la radio in questo, un saluto a tutti. Allora Maria Luisa, perché parliamo di bellezza? Perché ho deciso oggi di parlare di tendenze beauty. Marta, sono reduce dal Cosmo Prof, che è finito qualche giorno fa, lunedì scorso. Cosmo Prof è la più grande manifestazione a livello mondiale per il mondo della cosmesi e del beauty, e magari non tutti lo sanno, ma si tiene ogni anno a Bologna. Allora, posto che l'anno prossimo mi porti, perché io non sono appassionata di beauty e di make-up, no, di più, io sono proprio una addicted, una drogata di trucchi. È come portare un bambino tra gli 8 e i 13 a Gardaland. Oh, che meraviglia. Allora, dimmi quali sono le nuove tendenze e cosa possiamo fare per... abbiamo già detto, siamo bellissime, ma per esserlo ancora di più. Allora, innanzitutto partiamo dal make-up. Il make-up, grande scommessa di mercato, grande attenzione sia da parte dei produttori che dei consumatori. Tra l'altro, Marta, non so se lo sai, ma 6 prodotti su 10 di make-up utilizzati al mondo sono made in Italy. Fantastico. È un'eccellenza incredibile, silenziosa, sconosciuta quando si dice moda, design, cibo. In realtà bisognerebbe sempre dire anche cosmesi, perché vantiamo veramente un'eccellenza. Sono magari prodotti per conto terzi, cioè per grandi colossi internazionali che riconoscono l'eccellenza del made in Italy, quindi grande, grande vanto per la nostra industria. Allora, innanzitutto i prodotti multifunzione, cioè i trucchi che fanno bene alla pelle. Anche Clio Makeup questa settimana ha fatto un video proprio su questa cosa. No, fantastico. Sì, si vede che io sono proprio appassionata. Sì, dicono, si definiscono all in one, un esempio su tutti, il rossetto che idrata anche, quindi insomma mettere insieme sia la parte estetica che quella invece più delle proprietà curative. E poi grande attenzione, questo ormai da anni però una tendenza che prosegue, ai prodotti di derivazione biologica, quindi un grande focus sulla sostenibilità anche per il packaging, perché anche le confezioni insomma adesso stanno attente alla sostenibilità. E poi i formati, quest'anno il boom dei formati on the go, quindi comodi, cioè le creme, esatto, le creme comode da mettere in borsetta, da mettere in valigia per il weekend senza doversi portare la confezione grande, insomma magari si limita l'ingombro del bagaglio per poi il weekend. Poi soprattutto i prodotti che scadono, che magari vedi scadenza 6 mesi dall'apertura, però sono enormi e quindi cosa fai? Li usi dopo la scadenza o li butti via? No, entrambe le cose non mi piacciono. No, esatto, e quindi grande attenzione a questi formati molto più maneggevoli. E poi prodotti etnici, attenzione alla multiculturalità, quindi un segnale di grande apertura che arriva anche dall'industria, che è attenta ovviamente alle nicchie emergenti. Quest'anno al Cosmoprof, grande novità, c'era un'apposita sezione che si chiamava Tones of Beauty, c'erano tantissime imprese internazionali e protagonisti, adesso arrivo a te Marta, perché so, i prodotti per i capelli curly, quindi i tuoi riccioli. Fantastico per i ricci, finalmente. Per anni siamo state frustrate noi con i capelli ricci. Esatto, adesso invece avete tutti i prodotti. Miel Organics è una su tutte, ma ce n'erano veramente tante, un'impresa americana, c'era la fondatrice, mi ha raccontato insomma un sacco di cose. E poi un padiglione apposito dedicato alla K-Beauty, cioè la cosmesi coreana, tutti i prodotti anche quelli vanno di modissima, fanno un sacco di video tutorial su YouTube, le maschere, esatto queste maschere di cotone, di bellezza con le forme degli animali, il panda, il gatto, vabbè, incredibili. Anche lì grande attenzione al packaging, confezione incredibile, coloratissimi ovetti, una crema al latte nella confezione del latte di cartone, coreani, insomma, sono fantastici. Incredibile, quindi un mondo di colori, un'esplosione incredibile, molti stand kawaii, no? Si dice carini. Me l'ha insegnato mia figlia, perché è un mondo anche quello di tutorial, eccetera. E poi insomma grandissima attenzione anche proprio ai prodotti particolari, a nuove proprietà di estratti. Ad esempio ho conosciuto questa azienda francese sarda, si chiama SOA, S-O-H-A, che ha che sfrutta l'estratto di uve cannonau, molto ricche di polifenoli, e sembra che sia uno dei segreti della longevità dei sardi, quindi come dire ha applicato questa virtù anche alla crema di bellezza, e quindi insomma perché no, scommettiamoci. Io personalmente poi credo a tutte le creme di bellezza e anti-age, sì, quindi esatto, buttiamoci. Ci credo fermamente. Grazie Maria Luisa, che meraviglia, l'anno prossimo mi porti, anzi facciamo una cosa, ci andiamo in tre, ci portiamo anche Cristina Lazzati. Ciao Cristina! Ciao a tutti! Sì, vieni anche tu al Cosmoprof a impiastricciarti di creme con noi. Assolutamente, un po' di trucchi, un po' di belletti e soprattutto tante tante creme, perché come dicevamo è vero che siamo bellissime, soprattutto alla radio, però obiettivamente... si può sempre migliorare. Esatto. Bene, questa volta Maria Luisa ha citato il packaging, parliamo di packaging e parliamo di riciclo. Bene. A Piacenza si premia il riciclo, che è una cosa bellissima, la fa Tetra Pak con Conad, e di fatto è partita già da qualche giorno e durerà fino a 14 maggio. Chi va al Conad Superstore di via Modonesi a Piacenza troverà un totem interattivo dove poter portare i propri cartoni di Tetra Pak dal latte ai succhi, al vino e quant'altro, e in cambio riceverà dei buoni sconto da utilizzare nel punto di vendita. Un'iniziativa questa che non è partita ora, ma c'è già dal 2011 credo, è itinerante, si muove nelle varie città e ha il supporto di Conad, per cui state attenti al calendario, perché effettivamente non è male, le cose che si devono buttare via, che trovi in una via oltretutto così buona e bella, cioè il fatto comunque che rientrino nel ciclo produttivo e nel contempo in fondo risparmiare un po'. Tra l'altro è una cosa che sta andando molto, questo di riciclare conviene, lo hanno fatto anche lo scorso anno, ma credo lo ripeteranno anche quest'anno, anche nell'abbigliamento, l'ha fatto in Tinissimi, dove addirittura davano 3 euro per ogni reggiseno, 2 euro per la maglieria e 1 euro per gli slip. Ovviamente buoni sconto da utilizzare presso Intimissimi, però in fondo anche in questo caso, per farli finire direttamente nella pattumiera, tanto vale portarli lì. Lo certo. Stesso ha fatto Calcedonia con i costumi da bagno, e OVS lo sta facendo ancora, garantendo 5 euro di sconto su un massimale, cioè su massimale, su una spesa di almeno 40 euro da utilizzare sull'online. Poi obiettivamente i retailer chiaramente hanno anche un vantaggio in questo, perché ti fanno comunque tornare e rimanere all'interno del punto di vendita. Però diciamocelo, questa iniziativa di Tetra Pak è sicuramente un'iniziativa che mi piacerebbe venisse seguito anche da altre aziende che hanno, faccio l'esempio delle acque minerali eccetera eccetera, si mettano d'accordo con dei retailer e ci facciano trovare dei simpatici buoni sconto in cambio di quella spazzatura che altrimenti andrebbe a punire il nostro pianeta, invece in questo caso ci aiutiamo tutti, che è quello che dicono gli americani, win-win per tutti. Verissimo, perché sì, la raccolta differenziata più o meno ormai dappertutto la si fa, però se il punto vendita ci fidelizza, come mi avete insegnato, offrendoci anche un vantaggio economico, bello, mi piace moltissimo. Grazie Cristina, un'ottima idea che speriamo che seguano altri punti vendita, altre catene, insomma mi piacciono tutte molto queste idee. Grazie Cristina. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Quindi l'appuntamento sabato prossimo con Cristina Lazzati, anche con Maria Luisa Pezzali, che però sentiremo su Radio 24 anche domani. Sì, domani dopo il GR delle 22, essere vere, ci sono ancora tante voci, tante curiosità che ho raccolto a Cosmo, prof. Meraviglia, al prossimo sabato, ciao! Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Il sabato del villaggio. Facciamo l'ultimo appello per i biglietti per il concerto di Gegè Telesfor. Abbiamo 5 coppie di biglietti. Scriveteci se preferite le date di Milano o di Roma. Auditorium Parco della Musica Roma 5 aprile, Blue Note 8 aprile a Milano. I concerti sono quelli di Gegè Telesfor. Diteci quando la musica vi ha salvato. 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp. E adesso è proprio il momento di parlare di musica. Volevamo sapere come hai. Volevamo sapere soltanto come. Sanno tutto! Sanno tutto! Tutto scienziato. Guarda gli esperti qui in città. Tutto scienziato. E che filosofo e profeta. Scienziato. Su 10 like e 3 commenti. Che scienziato. Contentissima di averlo qui al sabato del villaggio, perché è cantante, musicista, attore, le ha fatte di tutti i colori, continua a farle di tutti i colori, è veramente bravissimo. Io sono, no, l'ho detto, sono davvero, ma sinceramente contenta di avere al sabato del villaggio Clementino. Ciao, ciao Clementino. Ciao ragazzi, ciao a tutti. È la prima volta che mi viene a trovare a Radio 24, uscito ieri con il nuovo album dal titolo, esplosivo, scusa, Vulcano. Ma sicuramente, perché io mi rispecchio molto in un vulcano. E tutto il fuoco che ho dentro, che poi esce fuori attraverso le parole su carta e poi sulla musica e soprattutto sul palco. Quindi è un po' il fuoco della mia musica, ecco, che esce fuori. Non è uscito insieme a Sanremo, un po' dopo, perché la scelta, sì, di farlo uscire un mesetto e qualcosa in più dopo? Ma per lavorare meglio sui testi, lavorare meglio sulle produzioni, per vedere quello che mi piace, quello che non mi piace, perché Sanremo, già sai, è un calderone di interviste, giornali, TV, eccetera. Magari uno, per pensare solo alla canzone di Sanremo o alla cover, non ha tempo di pensare al resto delle canzoni dell'album. Invece, dandomi un mese di spazio, ho avuto modo di rendere le canzoni al meglio possibile. Ti devo chiedere per forza cosa è restato di quel Sanremo un mese dopo. Ma un bel ricordo, io sono per te contento. È stato accidentato quel, ma un po' Sanremo. Sì, perché non ho avuto modo di fare la cover, però sai, è anche tra virgolette un gioco, quindi stiamo alle regole del gioco. Poi Zucchero, Vasco Rossi e Jovanotti Docet, quindi tu ne hai fatti ancora con più successo di loro. Loro erano arrivati tutti ultimi o quasi. Io sono contento, insomma, di essere arrivato in finale, quindi va bene così. Che viaggio è Vulcano? Perché rispetto al pezzo di Sanremo, secondo me, cioè, non è esattamente il biglietto di visita dell'album, il pezzo sicuramente di Sanremo. No, il biglietto di visita forse è il nuovo singolo che è uscito da poco e si chiama Tutti Scienziati. Io ho voluto tirare fuori un'atmosfera molto anni 90, ma sempre proiettata nel 2017. Sono contento perché è un disco che mi rispecchia al 100%, che ho scritto in giro per il mondo. Ci sono rime scritte alle Maldive, ci sono rime è vero, rime scritte. Che cosa ti hanno ispirato, sì, le Maldive? Il mare. Io da buon napoletano esco capaz bo mar, e quindi le Maldive, Cuba, Amsterdam, New York City. Io scrivo molto in giro perché mi piace sentire le voci diverse da quelle della mia nazione, mi ispirano tanto i modi di fare, i colori, le luci, i suoni, quindi mi sono dato da fare e ovviamente ho scritto tante canzoni a Napoli, nella mia città, infatti una canzone come Tutti Scienziati oppure canzoni che hanno comunque molta cadenza dialettale le scrivo anche a casa mia, a Cimitile, ecco, in provincia di Napoli, però molte canzoni le scrivo fuori, sono contento, prendo ispirazione dalle città. Una rima mi è uscita, un paio di rime mi sono uscite a Lione durante la mia operazione alle corde vocali. Quindi voglio dire, ho tirato fuori un po' di tutto. Ad Asti mi sono preso un periodo di 2 mesi di pausa dove ho scritto alcuni pezzi del mio album in Piemonte. Quindi voglio dire, in giro per il mondo, ecco. Abbiamo citato Napoli e sono curiosa di avere una spiegazione su questo Paolo Sorrentino, che è una bandiera, però effettivamente come titolo di un pezzo Paolo Sorrentino colpisce. Ma all'inizio il pezzo si chiamava L'uomo in più, poi mi sono detto L'uomo in più è un solo film, siccome le canzoni, cioè la canzone viene da tante frasi prese dai suoi film, ho detto no, chiamiamola Paolo Sorrentino. Andiamo a parlare di Tutti Scienziati, visto che è il nuovo singolo. Perché Tutti Scienziati e perché quel video lì che... Ma guarda, all'inizio io ero con la mia manager Paola Zucar, con mio fratello Paolo e con uno dei miei responsabili Universal, Jacopo Pesce. Eravamo praticamente in macchina, io avevo tirato fuori questo testo che si chiama Tutti Scienziati, che parla, che sono tutti esperti, sanno tutti tutto, e lo vedi pure oggi nei commenti, metti una foto, ciao ragazzi, non lo so, ho fatto questa canzone, però la potevi fare così, però sai, sono tutti mister dopo la partita, se dice. Ho detto, serve ho scritto questa canzone che dice sono tutti profeti, sanno tutto, in un'epoca dove non puoi fare nulla, che subito hai chi ti dice come bisogna fare le cose, ho tirato fuori questa canzone che si chiama Tutti Scienziati. Come lo facciamo sto video di Tutti Scienziati? Abbiamo pensato a Emmett Brown, Doc, Ritorno al futuro, perché lo scienziato però è stato fatto già molte volte. Poi abbiamo pensato a Frankenstein Junior. All'improvviso mio fratello Paolo mi dice no, Leonardo da Vinci, scienziato Leonardo da Vinci, boom, non ci resta che piangere. 1400, quindi, quasi 1500. Eh sì, abbiamo preso praticamente, a questo punto mancava Massimo Troisi nel nostro calderone con il grandissimo Roberto Benigni. Io sono un super fan anche di Roberto Benigni, un giorno scriverò una canzone per Roberto Benigni, lo farò, guarda, l'ho deciso e lo farò. E abbiamo tirato fuori questo videoclip con la regia di Mauro Russo, Calibro 9, dove abbiamo rifatto praticamente non ci resta che piangere. Quindi ambientata a Frittole, quasi 1500, con i personaggi del film. Guarda, sto prendendo la voce di Benigni, sì, man mano che inizio a raccontare. Abbiamo preso Leonardo da Vinci, la ragazza che fa la scena della palla, che tra parentesi è la figlia della Sandrelli, no? Certo. Ed è identica. Poi c'è la ragazza con l'arco sul cavallo, i Jackal che fanno la parte di chi siete, quanti siete, un fiorino. I Jackal che dopo l'enorme successo di effetti di Gomorra sulla gente, secondo me erano i più adatti, napoletani anche, e poi il Pancio mi accompagna, perché non volevo, ovviamente nessuno si è permesso di copiare i maestri Benigni e Troisi, noi abbiamo semplicemente messo Clementino e il signor Andrea Panciroli, il Pancio, grandissimo youtuber. Come si dice, abbiamo rivissuto le stesse scene. Far uscire un album il 24 marzo significa che poi te lo devi portare in giro tutta primavera e l'estate. Sì, non vedo l'ora di suonare dal vivo, perché devi sapere che io per 2 anni ho fermato i miei concerti in inverno. Un anno per Sanremo, e quindi dici ok, c'hai Sanremo, fermiamo i concerti. Un anno sono stato operato alle corde vocali, ok, fermiamo i concerti. Quest'anno me la voglio godere fino all'anno prossimo, cioè fino a marzo del 2018 voglio suonare sempre. Avrò tutto maggio, farò la tournée europea, quindi ci saranno un po' di date, Londra, Colonia, Stoccarda, Zurigo, sarà una mini tournée europea, e poi da giugno partirà la guerra, Odissea, Vulcano Tour, da giugno fino a settembre. Quindi occhio alla mia pagina Facebook, Instagram, guardate le date, vi aspetto sul palco. Sotto il palco. Ovviamente qualche idea balzana come al solito, personaggi strani, così. Sì, io ho mio fratello che è un grandissimo ideatore. Ce l'abbiamo qua. Sì, mio fratello Paolo Maccaro. È colpa sua. Poi sicuramente tutto quello che faccio non viene soltanto dalla mia mente, dalla mia determinazione. È ovvio che dietro c'è una squadra. Quindi dietro un cantante ci sono sempre tantissimi ragazzi che lavorano, e bisogna sempre i fonici, gli addetti sul palco. E sicuramente è una cosa importante ringraziare tutti ogni volta. È anche importante farlo capire ai ragazzi che ti seguono. Certo, che è una storia di lavoro. Ma certo, ma anche perché secondo me, a me piace molto il concetto di costruire una carriera. Perché la carriera bisogna costruirla piano piano, ci devono essere gli intoppi, le cose che vanno bene, le cose che vanno male. Chiaro, io ho pianto tante volte per la mia musica, mi sono fatto tante risate per la mia musica, quindi gioie e dolori. E la gente vera è quella che ti sta a fianco, sia nelle gioie che nei dolori. Quindi noi siamo abituati a vincere e siamo abituati a perdere, quindi bella, siamo dei signori modestamente. Grazie Clementino. Vulcano è uscito ieri e io sono convinta che insomma entrerà nei cuori di tutti. Grazie Clemente. A voi ragazzi, ciao. Resto fino a quando sorriderai tra le luci del mattino, e poi questa non è l'aria che respirerai, ricordi quando eravamo noi. Resto fino a quando sorriderai, non ti sveglio in questo sogno. Scriverò sui muri della mia città storie di ragazzi fuori. Grazie Clementino di essere stato con noi, grandissimo. Noi adesso ci fermiamo per un attimo, poi la terza ora del Sabato del Villaggio diventerà RadioTube. Ci fermiamo per un attimo perché tra qualche istante è il momento di GR24.